Questo signore che vi ha raccontato, di Renato, sì. È molto simpatico. Prima è molto simpatico, è stato anche gentile, perché ci ha fatto venire, ci ha raccontato questa esperienza. E secondo, è bravo. È un po'? Bravo. Bravo, bravo. No, bravo detto. Perché, bravo, perché ci vuole tanta esperienza a raccontare tutto questo. Beh, esperienza. Anche disponibilità.